la fa. No! Bertu ma whisky e la dorma John Denbra. La mezza Luisa e il set cus e la fa. Mezzo gli anfibi ogni volta che va a balà. La gana certa età. No! Mezzo gli anfibi ogni volta che va a bala. Papà! La mezza Luisa, urmare grassa in shape. Poi ma truola perché la me mai ranca a me. Una certa età, no, vale sempre in cala, seguito da mamma ya. Mamma, la mezza Luisa ormai le grassa in shape. Forma truola perché non è mai ranca me.